al movimento. E allora? Mi sentite bene? Mi sentite? È giusto che nell'anno europeo della donna si rammenti la donna fiorentina che nei tanti paesi del mondo è divenuta famosa per la sua bellezza fermata nel tempo dai grandi artisti del passato e del presente. Che cosa ha significato e che cosa significa essere donna a Firenze? Ecco, secondo me la definizione che più le si adatta è questa: essere donna e Madonna. Per Madonna, naturalmente, non voglio intendere la madre del nostro Signore, ma riportarmi al titolo con il quale ci si rivolgeva nel lontano Medioevo e nel Rinascimento alle gentilissime di quel tempo. Oggi non si usa più e francamente non sarebbe neppure appropriato per le moderne creature vestite spesso in jeans e piumino imbottito, un po' spettinate ed a volte infagottate in indumenti che mortificano la loro femminilità. Ma quando rivisitiamo i nostri musei, i capolavori pittorici del passato ci dicono come quel Madonna fosse parola dovuta alle vaghe creature rese immortali da quei pittori che tanta gloria hanno dato alla nostra città. Madonne pallide altere come Lucrezia Panciatichi, gioiose come le grazie del Botticelli, regali e semplici come ci appaiono negli affreschi del Ghirlandaio, misteriose come la Monna Lisa di Leonardo, o signorilmente alla mano come doveva essere Lucrezia Tornabuoni, madre del Magnifico, donna coltissima, poetessa, forse colei che ha prestato il volto alla Madonna del Magnifico del Botticelli, poiché vi ha rappresentata con i figli Lorenzo e Giuliano. O angelicate come Beatrice Piccarda Donati, donne che spesso vivevano principescamente, ma che tenevano più che tutto all'unione familiare, econome per natura, anche se nelle feste splendide, nella vita di tutti i giorni semplici e modeste, perché questa è virtù proprio dei fiorentini. Essi non sono avari, ma parsimoniosi, e del resto, da tutto quello che ci circonda, a cominciare dalla nostra architettura, possiamo notare come la bellezza noi la si intenda sobria, non sovraccarica di inutili orpelli, ma rivolta soprattutto alla purezza delle forme e all'armonia del disegno. E le immaginiamo queste donne di allora camminare per le strette vie di Firenze, spesso elegantemente vestite con gli splendidi tessuti del tempo e per i quali la città divenne famosa: i velluti, le sete, i broccati, dove nella filatura spesso venivano impiegati anche sottili fili di oro puro, quelle stoffe dai colori smaglianti ottenuti da abili tintori che usavano tra l'altro la bacca dell'oricello, un lichene africano che forniva una sostanza colorante molto viva. L'antica ricchezza di Firenze era nata con la nobiltà del lavoro, il lavoro artigiano, del telaio, del fuso, del bulino. Nella città del Giglio, nel 1300, prosperavano più di 200 fabbriche che producevano pezzi di lana e seta che i mercanti poi vendevano in tutta Europa. La moneta fiorentina era la più ambita ed apprezzata. Le donne di quel tempo conducevano vita molto ritirata ed austera. Non era ben visto la fanciulla che troppo spesso sostasse vicino alla finestra. Esse non dovevano passeggiare senza un preciso scopo per strada, né andare a far compere nei negozi. Le ragazze non si sposavano prima dei 20 anni ed erano dedite alla cura della casa, spesso chine sul telaio o sul ricamo. Quando i due promessi si scambiavano gli anelli, questo avvenimento veniva festeggiato con pranzi e riunioni familiari, come l'ora. Era d'obbligo che la sposa portasse una dote e l'ammontare di questa era trascritto sul grande libro del Monte delle Doti. Per le meno abbienti provvedeva lo Stato. Però anche allora le donne, cioè alcune donne, furono abili imprenditrici nel commercio, nell'economia, protessero e incrementarono molto le arti. Soltanto con la signoria dei Medici la donna si affrancò da quel modo di vivere e prese sempre più parte a feste sontuosamente addobbata, ingioiellata, inghirlandata di fiori. La si vedeva per le vie cittadine o di collina cantare il maggio e prendere parte a tutte le manifestazioni mondane. Vedrai le piagge di color diversi coprirsi come primavera suole, né più la terra del tempo dolersi, ma vestirsi di rose e di viole, cantava Lorenzo il Magnifico in onore della bella stagione o per gli occhi di una Madonna che forse avevano il medesimo colore del cielo di primavera o quello di Lucrezia Donati, primo grande amore del Lorenzo diciottenne. Oggi, come ho già detto, non si canta più il maggio. Le giovani si recano in campagna in motocicletta o in auto, ma sono le lontane discendenti da quelle leggendarie creature che ci guardano dai quadri e dagli affreschi. Hanno gli stessi occhi delle donne di ieri, quegli occhi che Lorenzo glorificava con queste parole: «O vagli occhi amorosi, che in questo e in quel bel viso, quando mirate fiso, vedete mille bellezze diverse». Noi le immaginiamo, queste Madonne, recarsi alle funzioni religiose nella chiesa di Badia, di Ognissanti o Santa Reparata, oppure ad ascoltare i duri sermoni del Savonarola in San Marco, accompagnate dalla madre o dalla fantesca, contegnose e femminili quanto gaie durante le feste per il patrono o nel calon di maggio, quando la primavera fiorentina fiorisce le colline e il canto si propaga di colle in colle, portato dal vento che trascina con sé voci e profumi. Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, ben venga primavera che vuol l'uomo si innamori, scriveva il Poliziano, e quel canto era un inno all'amore, alla terra, alla gioia. Ma la vita non era sempre idilliaca nella Firenze del Medioevo e del Rinascimento, anzi la città era spesso divisa da lotte fratricide, odio, faziosità, e nella bella città del Giglio quanto sangue e quanto pianto. E le donne non potevano essere certe al di fuori da queste lotte e molto spesso videro i loro cari uccisi o banditi dalla città per un esilio doloroso, spesso ingiusto. Videro le loro sontuose dimore saccheggiate, incendiate, distrutte. Gemma Donati non rivide mai più Dante e così altre spose che restarono coi figli nelle case deserte del capofamiglia. Solo durante la signoria di Lorenzo il Magnifico la città conobbe anni di pace e di grande prosperità. Qual è il vero volto della donna fiorentina? È quello spirituale o angelico, è angelico di Beatrice, volto che non conosciamo ma che immaginiamo dolcissimo? Hanno esse il volto, la grazia, l'arguzia e la spregiudicatezza delle fanciulle che Messer Boccaccio descrisse nel Decamerone, quelle fiammette, laurette, laudomie, ricche di femminilità, candore, malizia e che ci appaiono così vere, così vive. Il giovane volto un po' matronale di Lisa Gherardini, la Gioconda leonardesca che ci guarda con i dolci occhi mestamente ironici, le mani pienotte abbandonate sul grembo, mani che lasciano indovinare carezze, quel volto enigmatico che certo fu gioia e tormento del grande Leonardo, che non volle mai nella vita separarsi dal dipinto. È quello di Alessandra De Bardi, una gentildonna portata come modello nella Firenze del 400, bellissima e pia, il più bello ornamento delle feste fiorentine, ma alla quale la vita non risparmiò sventure l'esilio dei suoi pari e molti lutti. È il giovane sembiante di Fioretta Gorini, figlia di Goro Gorini, mercante di pannini in Calimala. Fioretta, molto amata da Giuliano de' Medici, il bellissimo fratello del Magnifico assassinato nella congiura dei pazzi in Santa Reparata durante la messa. Fanciulla che si dice Giuliano avesse segretamente sposato perché in attesa di un figlio, quel Giulio che fu adottato dal Magnifico e divenne poi Papa Clemente VII. Quel volto non è giunto fino a noi e certamente raffiora nelle sembianze di qualche giovane donna che ci cammina accanto nelle affollate strade della città. Oppure è la bellezza imperiosa di Lucrezia del Fede, moglie dispotica del grande Andrea del Sarto, che la prese a modello, lei che dolce non era per le sue dolci madonne. E vedo i volti disperati delle donne fiorentine che durante l'assedio di Firenze nel 1530 lottarono, disposte a farsi seppellire con i loro uomini e figli sotto le rovine della città prima che questa cadesse nelle mani di Malatesta Baglioni, come purtroppo di fatti cadde. Donne simili alle loro lontane discendenti che nella guerra del 1940 lottarono per la libertà, per la giustizia, e molte furono torturate, deportate ed uccise, bianche colombe che vivono intorno a noi la loro eterna vita, libere come avevano sognato. E uno dei tanti volti è quello semplice di Laudonia, una giovane vedova, madre di Orlanduccio, che è passata alla storia per il coraggio dimostrato nell'affrontare un leone fuggito dai sotterranei della torre del Guardamorto, dove ora sorge la loggia del Bigallo. I leoni erano dapprima lì custoditi come rappresentanti del Marzocco, emblema della Repubblica. Correva l'anno 1259. Il piccolo Orlanduccio di 5 anni era stato mandato dalla madre a comprare dell'olio, quando negli orti di San Michele, ora Or San Michele, incontrò il leone. Il piccolo impaurito si mise a correre. Il leone lo rincorse, lo rovesciò con la zampa, indi lo agguantò con le fauci per la vestina e se ne andò calmo e solenne con la sua preda. La donna, richiamata dalle grida della gente, accorse e senza timore strappò dalle fauci della belva il figlioletto, salvandolo. Per questo atto di coraggio la donna è passata alla storia. E il grande Michelangelo, a quali volti femminili si sarà ispirato per le possenti figure che animano le mura della Cappella Sistina? Donne terribili nella loro grandiosa bellezza. E il volto della Madonna del Tondodoni non ha forse il sembiante delle semplici donne della nostra terra? Un bel volto sereno dai piani larghi, una madre terrena più che angelica, simile a quello delle marmore madri della Madonna Pitti e della Madonna Taddei. Invece nel bel viso della Vergine, nella Pietà conservata nella città del Vaticano, l'unica che Michelangelo firmò sulla fascia che attraversava il petto della Madre di Dio, nel volto di quella creatura giovane e dolcissima, noi ritroviamo i tanti volti resi immortali dagli artisti fiorentini del tempo. Le creature di Michelangelo sono certe venute a lui da remote lontananze per risalire fino all'anima del grande, per consolare, per popolare l'immensa solitudine di un genio. E le altre due che riposano nella piccola cappella della sagrestia di San Lorenzo, una simbolo della rosata aurora, l'altra immersa nel viola della notte, due simboli femminili, splendidi e terribili, sono le sorelle delle creature che vivono sulle mura della Sistina, indifferenti da secoli all'ammirazione dei tanti che hanno sostato e sostano con reverenza dinanzi a quelle figure che hanno in sé l'eternità e la fissità del tempo e che vivono pur dormendo, come ha lasciato scritto un famoso autore. Il Lorio Dico vive una delle multiforme anime di questa Firenze grande popolana, dolcissima ed anche aspra e spietata. Firenze dette alla Francia due regine, Caterina e Maria de' Medici, la prima figlia di Lorenzo Duca d'Urbino, dunque nipote di Lorenzo il Magnifico, portò nel paese d'Oltralpe l'amore per le arti, comune a tutti i medici, fu la sposa di Enrico II. Maria, figlia del Granduca Francesco I, sposò Enrico IV e alla di lui morte tenne la reggenza per il figlio Luigi XIII, che poi tolse il regno alla madre con un colpo di Stato. Due donne fiorentine che non voglio giudicare per quello che di errato possono aver commesso come donne e come regine, ma che furono ambasciatrici di bellezza e contribuirono ad accrescere l'amore per le arti, per il buon gusto del quale Firenze era ed è maestra nel mondo. E tra i tanti volti che emergono dalla nebbia del tempo, ecco due figurine che hanno più sembianza di anime che di creature terrene: Virginia e Livia, le figlie del grande Galileo, divenute poi Suor Maria Celeste e Suor Angelica, che nel convento di San Matteo di Arcetri certo tanto pregarono affinché al grande genio fossero risparmiate ingiustizie, umiliazioni e cocente dolore. Umili monachelle, consolazione dell'immenso incompreso che trovò nell'intelligenza e specie nelle tante lettere di Suor Maria Celeste, che ci dicono quale degna figlia di Galileo essa fosse, il dolce balsamo per le profonde ferite inflitte al genio da coloro che non avevano ricevuto quella luce che egli invece ricevette da Dio. Nei secoli sono state tante le donne, o che per il loro censo, l'intelligenza, la bellezza, le avventure diverse sarebbero degne di essere rammentate. Ma com'è possibile questo? Ci vorrebbe un intero volume e non una modesta lettura come la mia. Ogni secolo ha avuto donne celebri, ma io mi sono limitata a ricordare quelle che timidamente hanno picchiato alla porta del mio cuore e della mia mente per dirmi rammenta. E allora, come non rammentare quella donna gentile che fu la fiorentina Quirina Mocenni, che amò senza speranza Ugo Foscolo, che l'ebbe cara come una dolce sorella, sebbene avesse pensato di sposarla quando essa rimase vedova. La donna gentile non aveva accettato, consapevole di non possedere quel fascino che avrebbe legato Foscolo a lei per sempre. Quirina, che sapendo le ristrettezze inviava a Londra aiuti e lettere. Non sono io la madre, sorella, figlia tua. Sotto questi titoli esigo tutta la tua confidenza, tutta la tua bontà per accettare da me quegli aiuti che voglio e che debbo darti. Una grande donna, anche se modestissima. Ed ecco Emilia Peruzzi, tra le donne fiorentine, la sposa di Ubaldino, deputato, senatore, sindaco della Firenze capitale e nel di cui salotto, nel palazzo di Borgo dei Greci, si radunò il meglio del mondo intellettuale e patriottico del tempo. Il salotto di Don Emilia fu famoso e vi si radunarono poeti, musicisti, pittori, uomini politici, patriotti. E le nostre donne le ritroviamo nei dipinti e nelle prime fotografie dell'epoca. Le vediamo nelle pitture dei nostri macchiaioli toscani, figurine leggiadre, spesso modestamente vestite, ma colme di una loro grazia che ben si accorda con la città di quel tempo. Le ammiriamo mentre sostano sotto un pergolato, intente al ricamo o ad intrecciare paglia. La paglia che reca in sé tutto il colore del sole. Un'altra importante industria fiorentina e toscana che purtroppo va scomparendo. Oppure sono nei giardini colmi di luce e di fiori, le teste riparate dall'ombrellino, il sole, la vita sottile, la gonna che si apre come una corolla. Così, come le hanno dipinte Fattori, Leca, Signorini e tante altre. Essi hanno una bellezza gentile, non appariscente, così in carattere con tutto quello che le circondava allora. E poche parole anche per Virginia Oldoini, poi contessa di Castiglione, nata a Firenze nel 1835, la bellissima tra le belle, che tanto si adoperò a favore dell'Italia risorgimentale. Era cugina di Camillo Benso, conte di Cavour, che la presentò alla corte di Parigi. La bellezza della donna sedusse Napoleone III. Era così bella che neppure la più invidiosa delle sue rivali potette mai trovarle il benché minimo difetto fisico. Non sappiamo fino a quel punto l'influenza su Napoleone contribuisse alla realizzazione dei disegni di Cavour, perché ci mancano documenti al riguardo. Il volto delle donne fiorentine di oggi, io dico, che è un poco tutto di questi volti. Le creature nei secoli si spengono e risorgono, e con esse ritorna il buon seme. Il modo di vivere è molto mutato, ma il carattere è rimasto, come le vecchie pietre, a mostrare una razza che ha in sé la grandezza di virtù semplici ed eterne, che sotterrano mode e sempre risorgono come i polloni degli olivi dopo una gelata, come la pianta del giaggiolo, nostro simbolo di fiorentinità. Ed è la donna custode di tutto, la donna che tramanda nei figli gusto, costumi, la bellezza della lingua, ora purtroppo inquinata da troppe parole che non hanno niente in comune con la nostra bella favella, nostra come questa terra che nei secoli tanto ha dato, tanto ha veduto, sofferto e gioito. E nelle tradizioni da salvare vi è anche quella della nostra semplice, squisita cucina fiorentina e toscana. Mutato molto è il nostro modo di vita, e per ritrovarne le radici ogni tanto bisogna tornare al passato, tornare in quei luoghi dove ci vengono incontro volti noti ed amati, volti di donne che ispirarono capolavori. La bellezza di alcuni dipinti nel tempo è stata offuscata da cattivi restauri e rifacimenti. Una valente pittrice e restauratrice che vive negli Stati Uniti e alla quale mi lega profondo affetto, poiché è una mia sorella, ha studiato a lungo alcuni capolavori e vi ha scorto purtroppo arbitrare alterazioni anche nei lineamenti, rifacimenti che chiedono giustizia. Alle dame fiorentine non mancarono certo madrigali e canti amorosi, esse furono molto onorate. Lorenzo de' Medici, nel poemetto Corinto, canta dell'amore del pastorello per la bella ninfa Galatea, e leggendolo ci viene fatto di pensare se il poeta abbia voluto con questo esprimere la sua ammirazione per una bellissima del suo tempo, tanto ci appaiono appassionate le parole che a questa dedica. In alcuni versi egli si rivolge alla bella ritrosa con queste parole: fuggi dove tu vuoi, sempre son teo. Se il tuo crudo voler fosse più pio, se io ti vedessi qui, se io ti toccassi le bianche mani e il tuo bel viso, oh Dio, se meco sopra l'erba ti posassi, della scorza farii d'un lento salcio una zampogna, e vorrei tu cantassi le erranti chiome, poi strette in un tralcio vedrei per l'erba il candido pie muovere ballando, e darà al vento qualche calcio, poi stanca giaceresti sotto il rovere, io per il prato correi diversi fiori e sopra il viso tuo gli farei piovere. Io sono certa che in ogni figura allegorica egli vedeva la grazia di una creatura vera, viva, dal volto semplice ed aristocratico, pudico ed ardito insieme, eterno femminino di ora e di sempre. Una delle creature più amate nella Firenze del 400 e che prestò il volto alla bellissima Venere del Botticelli fu Simonetta Cattaneo. Chi dice fosse nata a Genova, chi a Porto Venere, andata sposa a un Vespucci fiorentino, parente del grande navigatore e morta prima dei 20 anni. La bellissima regina di tutte le feste fu amata da Giuliano de' Medici e sembra che anche il Magnifico ne fosse innamorato, tant'è vero che dopo la sua morte egli, paragonandola ad una stella, scrisse quei versi bellissimi che iniziano con queste parole: «O chiara stella, che coraggi tuoi togli all'altre vicine stelle il lume, perché splendi assai più che il tuo costume, perché con Febo ancor contendere vuoi?» Oggi la donna ha mutato aspetto. La vita moderna ha cancellato, almeno apparentemente, quella fragilità dolce e indifesa. Ha cancellato quella austera grazia davanti alla quale gli uomini si inchinavano. Oggi non le vediamo in sella a motorini o alla guida di auto veloci, con indosso abiti maschili e quei jeans tanto stretti che mostrano senza misericordia difetti o mettono in mostra provocanti pregi. I capelli, una volta raccolti in preziose reticelle dorate e spesso intrecciati a perle e fiori, spesso si mostrano oggi spettinati e sciatti, tanto da far dubitare dell'uso del pettine. Perciò, da quel punto di vista, non possiamo far paragoni. La donna di oggi è senz'altro più alta, più sana, più robusta, libera e disinvolta, ma ha perduto quel fascino che ritroviamo solo quando ci fermiamo pensosi davanti alle figure del passato, oppure quando in una serata di gala le ritroviamo fastose, leggiadre, femminili come le loro antenate. Il sigillo della buona razza non si è spento. La donna di oggi è sempre ricca di grazia, di quell'arguzia tutta fiorentina, è certo più vera, e se è bella lo è anche senza tutto quel fasto che aiutava certamente ad essere più belle e che pietosamente poi celava anche i difetti. Le donne fiorentine ancora oggi sono spiritose e gaie, semplici e chiare, come semplici e chiare sono tutte le cose che valgono, ricche di spirito critico, poiché abituate da sempre al bello, e questo lo sa vedere alla prima occhiata. Una volta, ai tempi della mia gioventù, ricordo che una signora straniera mi disse che le sembrava di aver notato come le donne di Firenze dessero molta importanza al vestire e perciò ritenute da lei vanitose. Al che io ribattei che non si trattava di vanità, ma di amore verso il bello, perché le fanciulle di qui avevano ereditato fino dai tempi delle loro antenate etrusche questo amore, e quando si nasce tra cose belle le si amano, è direi un dovere. Oltre al modo di abbigliarsi, è mutato nei secoli l'aspetto fisico delle donne fiorentine? Certamente nell'insieme sì. Il mondo ora è divenuto piccolo, ci si sposa con persone di altri paesi con più frequenza di una volta. Quando si trattò di scegliere una moglie per il Magnifico Lorenzo, la madre Lucrezia, certo per ragion di Stato, pose gli occhi su un Orsini di Roma. E nonostante che la distanza tra le due città non sia poi tanta, Lucrezia notava in una lettera come la promessa sposa fosse diversa dalle fanciulle fiorentine. Trovava sì alcuni pregi nella giovinetta, però questa non aveva il capo biondo come da noi e non è sì gentile come le nostre e va col capo non ardito come le nostre. Dunque contegnose queste madonne fiorentine, come si conveniva a creature ben allevate, ma anche ardite, col bel volto levato, gli occhi non abbassati neppure di fronte all'ammirazione maschile. Ora io non so se le giovani donne di quel tempo fossero proprio tutte bionde o se questo fosse dovuto alla moda che imponeva di schiarire i capelli. Certo, non si può fare a meno di notare come le madonne di Giotto, del Lippi, del Beato Angelico, le primaverili creature del Botticelli abbiano tutte quel capo biondo che tanto doveva piacere a Madonna Lucrezia e quel modo gentile e un po' altero di levare la testa verso l'alto. Mi piace? di soffermarmi sulle immagini di queste nostre antenate, poiché la poesia di quei volti parla al mio cuore più a lungo. Le cose del passato hanno l'incanto di un sogno, ma non è detto che le donne di oggi siano molto cambiate nel fondo dell'anima. Esse, è vero, sono divenute manager, e nella nostra città abbiamo l'esempio di donne che si sono imposte nel mondo, specie nel campo della moda, della musica, del canto, donne che portano ben in alto il nome della città, sinonimo di buon gusto nel lontano passato così come nel presente. Ho qui davanti agli occhi alcune poetesse che onorano veramente la Firenze di oggi. Dunque, oggi abbiamo donne poliziotto, piloti di aerei e di auto da corsa, donne che anche nei primati sportivi si avvicinano sempre di più a quelli dei maschi, ma la femminilità rimane, anche se nascosta da una più spessa corazza. È la vita di oggi che impone questo cambiamento. Tutti presi dal nostro modo di vivere, abbiamo molto meno tempo da dedicare a madrigali e a serenate. E d'altra parte, ora si canta l'amore con parole un po' diverse, ma sempre amore, eh? E di ogni donna amata, anche l'uomo di oggi vede l'incanto delle Madonne di un tempo, ne apprezza la fragilità, ora meno palese, ma parte indiscussa dell'animo e del sentire femminile. Analizziamola ancora, questa fiorentina che ha di solito parola pronta e risposta appropriata. È dolce, ma sa essere anche caustica ed aggressiva, intelligente e spesso pittorescamente becera. Elegante, se segue un suo gusto personale, senza troppo imitare mode di altri paesi che hanno, conviene dirlo, spesso mutato in peggio il nostro innato buon gusto. Quello che fa grande un popolo è il retaggio di tanti secoli di vita, retaggio che va tenuto in gran conto, perché siamo, sì, tutti figli dello stesso Dio, ma proprio per questo non bisogna dimenticare che dobbiamo far sì che rimangano integri quei segni che ci sono stati donati per volontà divina. La bellezza del creato sta proprio in questa diversità di lingua, di costumi, di tratti somatici che ci fanno diversi gli uni dagli altri, anche se simili come creature umane. La sorte dei popoli è in gran parte nelle mani delle donne. Esse sono la terra che custodisce il seme. Esse hanno il grembo colmo di fiori e di frutta, come la nostra primavera del Botticelli, la bella albiera degli Albizi, simbolo di bellezza, vita, rinascita, che cammina danzando, i piedi leggeri non toccano terra, l'aria intorno a lei palpita al lieve vento della stagione nuova. E vanno per le nostre strade troppo affollate le donne fiorentine di sempre, quelle Simonette, Fiammette, Beatrici, Diamante, Paole. Diverso è il loro aspetto esteriore, ma sono le figlie di quelle gentildonne di poco tempo fa. Dico poco, perché cosa rappresentano 400, 500 anni di vita di fronte all'eternità? Sono niente, un battito di ciglia o del cuore. In questo mese di primavera si potrebbe ancora andare di strada in strada e cantare ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, oppure comporre in onore di lei un sonetto, come già fece il grande Dante nostro, che non sempre fu tenero nei suoi giudizi verso le donne fiorentine, ma che pure usò per una donna le parole che ognuna vorrebbe sentirsi dire. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, con lingua de vento tremando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestita, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostra se sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi porti una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che dalle sue labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. A tutte voi. Grazie, del quale io sto parlando. Sì, grazie. Dovunque. Adesso mio padre era un grande. Senti, ancora sono a metà Virgilio. Lo so, ma cos'è tanto. Basta le vite di mio padre per fare la cultura completa. No, ma tanti auguri, complimenti perché tu hai la genuinità fiorentina della ritiro del bene. Grazie. Ti è piaciuto, sì? No. È vero. È vero. Come è una cosa di cuore? Ma non quelle che mi